Mr. Kilowatt, alla ricerca dell'energia perduta. Buonasera da Maurizio Melis. Pochi giorni fa l'Unione Europea ha fissato la data di apertura delle aste per l'acquisto di titoli per le emissioni di CO2. Si inizia a partire dalla metà del 2012. Mentre il mercato di questi titoli, c'è chi li chiama titoli neri, per esempio, anche se la definizione non è mai piaciuta molto, ecco, questo mercato diventerà invece completamente operativo a partire dal 2013. Stiamo parlando di un meccanismo che è già stato introdotto tempo fa e finalizzato naturalmente a ridurre le emissioni di CO2, di cui però finora si è parlato molto poco perché è stato applicato in modo molto lasco e quindi con ricadute minime sul sistema energetico. Ma dal 2013 cambierà tutto. Allora cerchiamo di capirci qualcosa di più con l'aiuto di Mario Cirillo, che è economista di REF, Ricerche per l'Economia e la Finanza, che ha affrontato questo tema nel corso di Zero Emission. Parliamo naturalmente di Cirillo proprio la settimana scorsa. Buonasera Cirillo. Buonasera. Allora, andiamo con ordine. Che cos'è un titolo per le emissioni di CO2 e qual è lo scopo per cui nasce questo meccanismo? In parte questo l'ho già detto io. Allora, un titolo di emissione di CO2 è sostanzialmente un certificato che vale una tonnellata di CO2 immessa nell'atmosfera. È un certificato che è scambiabile su un mercato, che è un mercato europeo, e perciò ha un prezzo. Lo scopo del sistema di emission trading europeo è quello di far pagare per ogni tonnellata di CO2 emessa nell'atmosfera. E quindi insomma è un disincentivo a emettere anidride carbonica. Ecco, esatto. Come funziona oggi questo mercato dei titoli di carbonio o del carbonio, insomma? Dunque, ad oggi le imprese che sono comprese in questo mercato, che poi non sono tutte le imprese europee, ma appartengono a specifici settori, quelli cosiddetti carbon intensive, che poi sono gli energivori, quindi sono imprese energetiche, imprese industriali ad alta intensità, ad alto consumo di energia. Queste imprese oggi hanno una dotazione iniziale di titoli che è loro assegnata da ciascun paese. Viene assegnata proprio gratuitamente, no? È una dotazione che gli viene data gratis. Esatto. Ad oggi c'è appunto un'assegnazione gratuita dei cosiddetti permessi di emissione. Queste imprese hanno l'obbligo di consegnare ogni anno una quantità di titoli alla Commissione europea che è pari alle emissioni che esse hanno effettuato. Sostanzialmente, se la dotazione iniziale è sufficiente e quindi va oltre le emissioni che effettivamente queste imprese registrano, il surplus di titoli può essere collocato sul mercato, altrimenti le imprese devono acquistare titoli sul mercato. Che cosa cambia a partire dal 2013? Allora, dal 2013 sono due i grandi cambiamenti dello schema. Lei ha parlato di un sistema gestito in modo lasco per il momento. Un cambiamento importante è quello dell'obiettivo complessivo, quindi del numero di titoli che effettivamente saranno in circolazione. Questa quantità di titoli sarà sensibilmente minore di quella attuale. E quindi questo farà lievitare il costo di questi certificati, diventerà più costoso emettere CO2. Molto probabilmente sì, essendoci meno titoli sul mercato, la domanda sarà più forte, eserciterà una pressione sui prezzi. E poi c'è un altro cambiamento importante, perché le aziende non avranno più la dotazione, vero? Esatto, non avranno più una dotazione di permessi assegnati a titolo gratuito, ma dovranno, almeno alcune di queste imprese dovranno acquistare i titoli attraverso un meccanismo di aste. Ecco, quali saranno le conseguenze prevedibilmente dell'entrata in vigore al 100% di questo meccanismo? Penso soprattutto ai consumatori. Allora, da un lato abbiamo detto si prevede un prezzo più alto per la CO2, dall'altro le imprese che partecipano al meccanismo sopportano un costo per l'acquisto di tutti i titoli, non solo per quelli che mancano. Le imprese trasferiranno questi maggiori costi sul prezzo dell'energia e sul prezzo dei prodotti. Sostanzialmente il consumatore si troverà a pagare di più l'energia e i prodotti. Con un forte contenuto investimento energetico, diciamo. Esatto. D'accordo. Ecco, secondo lei è giusto che alla fine siano i consumatori a pagare? Beh, certo. Finora non c'è stato alcun costo, non si è pagato niente per la CO2, però dobbiamo abituarci al fatto che il contenuto di carbonio, così si dice, dei prodotti ha un costo. Ha un costo sociale, ha un costo per l'ambiente, sono le cosiddette esternalità. Esattamente, esternalità che sono costi, diciamo così, che il consumatore non sostiene, a meno che non ci sia un meccanismo di questo tipo, ma che poi vanno, diciamo così, a carico di tutta la società. Quindi, insomma, è giusto che il consumatore paghi, anche perché almeno in questo modo si paga in funzione di quanto carbonio effettivamente si consuma, si produce, e non così indipendentemente dalle proprie abitudini. Possiamo forse concludere così? Certo, certo. È un po' in questo senso, si tratta di un ragionamento simile a quello che si fa quando si impone una carbon tax, anche se i due strumenti presentano delle differenze. E su questo torneremo prima o poi, perché è un argomento interessante. Grazie Cirillo. Grazie a voi. Anche per oggi è tutto, appuntamento a domani, stessa ora, stessa radio. Buona serata.